tenta sfera che tenete sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sto amore, come so sicuro che e prima l'ultimo sarà per me. Oi vita, oi vita mia, oi cuore, Cristo cuore, sì stato prima amore, o prima l'ultimo sarà per me. Sempre sta contenta, io non penso che a te sola, non pensiero me consola, che tu pensi solamente a me. Ah, più bella tutte belle, non è mai più bella e te. Prima amore, prima lode che vostra rai per me.